ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. Terza puntata. Hip. Sappiamo così poco dei suoi primi 22 anni, ma quasi tutto dei suoi ultimi 32 giorni. Abbiamo le minute del processo, le testimonianze, la deposizione di Sara e poi la sua confessione, scritta prima di morire e affidata al sacerdote perché la rendesse pubblica. Abbiamo i resoconti dei giornali e le raccolte di delitti celebri. Naturalmente le versioni sono almeno due, quella di Sara e quella dei suoi giudici. È quest'ultima che è passata agli atti e alla storia. Io invece mi sono affidata alla prima, e non per partito preso, ma perché la versione di Sara è più verosimile e perché credo che nella parola scritta come nella voce il vero e il falso diano un suono diverso. Comincia domenica 28 gennaio 1733, 32 secondo il vecchio calendario. Sara è sola in casa del suo padrone John Carroll, studente in giurisprudenza, uscito come ogni giorno per andare a mensa. Ha invitato Mary Tracy a prendere il tè. Sara usa la casa del padrone un po' come fosse la propria, vi tiene le sue cose, vi dorme qualche volta, vi riceve le amiche. Il padrone non sembra aversene a male. Sara passa per una bella ragazza. Mary e Sara ragionano insieme su come fare un po' di soldi. Mary si avvicina cautamente al suo progetto. Si parla di rapinare un certo Mr. Oaks a Thames Street, ma l'idea viene abbandonata perché Tracy ne ha una migliore. C'è Mrs. Duncombe, una vedova di 80 anni che vive su una poltrona a rotelle in compagnia di una vecchia domestica e di una servetta di 17 anni. Fino al Natale precedente, Sara viveva con lei e spingeva la poltrona. Poi al suo posto è stata assunta una ragazza che si occupa delle due donne. Non sembra che Sara ne sia rimasta offesa, anzi, forse è stata proprio lei a preferire una maggiore libertà perché continua a frequentare la casa e a rendere visita alla vecchia dama di compagnia. D'altra parte, Sara ha il suo alloggio a Shoreditch e da John Carroll sembra trovarsi bene. Fu allora, racconterà Sara nel suo memoriale, che diedi il mio consenso a quell'azione infelice di derubare Mrs. Duncombe. Mrs. Lydia Duncombe vive da 40 anni a un quarto piano di Tanfield Court, della modesta pensione lasciatale dal marito e di qualche risparmio. Con lei abitano Mrs. Betty, Elizabeth Harrison, di 60 anni, invecchiata al suo servizio e ormai inferma, e Nanny, Anne Price, la nuova servetta. L'inesperienza della ragazza, la conoscenza che Sara ha della casa e delle modeste ricchezze della vecchia signora e il relativo isolamento in cui vivono le tre donne fanno di loro le vittime ideali. Il solo rischio è, per Sara, essere riconosciuta. Ecco perché sono necessari dei complici. Le ho detto che non potevo farlo da sola perché sarei stata scoperta. No, dice lei, ci sono i due Alexander che ci aiuteranno. Il giorno dopo ho ricevuto 17 sterline dalla campagna che ho lasciato nel cassetto di Mr. Carroll. Li ho incontrati tutti a Cheapside il venerdì seguente, ci siamo intesi per la notte successiva e poi ci siamo lasciati. Arriviamo così a sabato 3 febbraio. È Sara a raccontare. Il giorno dopo era sabato. Sono andata fra le 7 e le 8 di sera a vedere la domestica di Mrs. Duncombe, Elizabeth Harrison, che stava molto male. Sono rimasta un po' con lei e poi sono scesa e Mary Tracy e i due Alexander sono venuti da me verso le 10 come d'accordo. Lei voleva procedere subito alla rapina, ma io ho detto che era troppo presto. Fra le 10 e le 11 ha detto: "Ora possiamo". Le ho risposto che andavo a vedere e così sono andata su e loro mi hanno seguita. Ho incontrato la giovane serva per le scale con un bricco blu che andava a prendere del latte per fare un sack posset, bevanda di latte cagliato e vino bianco. Mi ha chiesto chi erano quelli dietro di me. Le ho spiegato che era gente che andava da Mr. Knight al piano di sotto. Appena se n'è andata, ho detto a Mary Tracy: ora tu e Tom Alexander andate giù. So che la porta è rimasta socchiusa perché la vecchia domestica è malata e non può alzarsi per aprire quando torna la giovane. Allora sono andati giù e James Alexander, su mio ordine, è entrato e si è nascosto sotto il letto. Mentre scendevo, ho incontrato la ragazza che risaliva. Mi ha chiesto se avevo parlato con Mrs. Betty e le ho detto di no. Avrei dovuto dirle una cosa diversa, ma avevo paura che parlasse di me a Mrs. Betty e che Mrs. Betty le dicesse che non c'ero stata e mi potessero sospettare. Sono scesa e ho parlato con Mary e Alexander. Poi sono andata a casa del mio padrone e ho attizzato il fuoco. Sono rimasta lì per circa un quarto d'ora. Tornando indietro, ho trovato Tracy e Thomas Alexander seduti sulle scale di Mrs. Duncombe e mi sono seduta con loro. Alle 12 abbiamo sentito dei passi e Mr. Knight è tornato a casa e ha chiuso la porta. Era una notte molto burrascosa. In giro non c'era quasi nessuno e le guardie se ne stavano al chiuso, salvo quando uscivano a gridare le ore. Alle 2 un altro gentiluomo è tornato a casa e ha chiamato la guardia perché gli accendesse la candela. A questo punto sono salita e ho sentito la porta di Mrs. Duncombe aprirsi. James Alexander è uscito e ha detto: questo è il momento. Allora Mary Tracy e Thomas Alexander sono entrati, ma io sono rimasta sulle scale di guardia. Avevo spiegato loro dove si trovava la cassetta di Mrs. Duncombe. Sono usciti fra le 4 e le 5 e uno di loro mi ha chiamata sottovoce e ha detto: Hip, come chiudo la porta? Gli ho risposto: è una serratura a scatto, tirala e si chiuderà. E così uno di loro ha fatto. Volevano spartire il denaro e gli oggetti sulle scale, ma io ho detto che era meglio scendere. Siamo andati sotto l'arco, vicino a Fig Tree Court, dove c'è un lampione. Ho chiesto quanto avevano e mi hanno risposto di aver trovato 50 guinee e un po' d'argento nella borsa della domestica, circa 100 sterline nel comò, oltre al boccale d'argento e al denaro nella cassetta e a molte altre cose. Fra una cosa e l'altra, avevano racimolato il valore di 300 sterline fra denaro e oggetti. Mi hanno raccontato che erano stati costretti a imbavagliare le persone. Mi hanno dato il boccale con quello che c'era dentro e un po' di biancheria per la mia parte, mentre loro avevano un cucchiaio d'argento e un anello e il resto del denaro diviso fra loro. Mi hanno consigliata di farmi furba e di nascondere il denaro e gli oggetti sottoterra e di non farmi trovare piena di grano. Poi abbiamo deciso di incontrarci a Greenwich. L'appuntamento, preciserà nel suo memoriale, era per lunedì fra le 3 e le 4 a Pewter Platter sopra Holborn Bridge. Però io non ci sono andata. Ma le cose non sono andate proprio così. Il delitto. La domenica mattina, 4 febbraio, Anne Love di Ely Court, St. Andrea Holborn, vedova amica da 30 anni di Mrs. Duncombe, esce di casa per pranzare da lei. Era la 1 precisa quando sono arrivata davanti alla sua porta, racconterà al processo. Busso e aspetto un bel po', ma nessuno risponde. Torno giù a vedere se trovo qualcuno che ha visto uno di casa o che sa se la domestica è uscita. Incontro Mrs. Oliphant e lo chiedo a lei. Mi dice che non ha visto nessuno. Salgo le scale un'altra volta, ma non riesco a farmi sentire. Ne deduco che la vecchia Elizabeth Harrison è morta e che la giovane domestica Anne Price è andata a informare la sorella. Allora vado da Mrs. Rymer, che è l'esecutrice testamentaria di Mrs. Duncombe. Viene con me e saliamo di nuovo insieme, ma non riusciamo a farci aprire. Guardo fuori della finestra e vedo giù la prigioniera, davanti alla porta di Lord Bishop di Bangor, il maestro del tempio. La chiamo e le dico: Sara, per favore va a cercare il fabbro per aprire la porta. Dice che ci va di corsa, e così ha fatto. Perché l'avete chiamata? Chiede il pubblico ministero. Perché sapevo che conosceva Mrs. Duncombe. ma Sara torna senza il fabbro. A risolvere la situazione è Anne Oliphant, o Olivant, di Pearl Court, Whitefriars, vedova, che lavora come domestica dal vicino di pianerottolo di Mrs. Duncombe, Mr. Grizzly, ed è amica di Elizabeth Harrison. Anne Oliphant è una donna semplice, quasi analfabeta. Firmerà Anne la sua deposizione con una scrittura incerta e infantile. La sera prima è andata a trovare Mrs. Duncombe e lì ha incontrato Sara. «Sono andata a trovarla verso le 8», racconta. «Ha detto che le dispiaceva che il mio padrone se n'era andato perché il posto era così solitario. La prigioniera era seduta vicino al fuoco con Mrs. Betty e Mrs. Betty ha detto: «La mia padrona parla di morire e vorrebbe che morissi con lei». Mi sono alzata per andare via e la prigioniera ha detto che scendeva con me e così ha fatto. Ci siamo salutate in Tanfield Court», cioè davanti al cancello del maestro del tempio, Thomas Sherlock, vescovo di Bangor. La sua casa è di fianco alla chiesa e ha davanti un giardino chiuso da un cancello che apre su Tanfield Court. Anche Mrs. Love era presente a quest'ultima malinconica serata ed è rimasta un poco più a lungo, dopo che le due visitatrici se n'erano andate. Anne Oliphant ha un'idea su come entrare in casa. «Mrs. Love è venuta da me e ha detto che aveva bussato alla porta di Mrs. Duncombe e non riusciva a entrare. Pensava che Mrs. Betty era morta e Nanny era andata a informarci, la sorella, e che la vecchia signora non riusciva ad alzarsi. Era su per giù l'una e alle 2 mi ha detto che aveva mandato Sara a cercare un fabbro per aprire la porta, ma non era venuto e lei non sapeva come fare a entrare. Dico io: le camere del mio padrone Grizzly, sapete, sono proprio di fronte a Mrs. Duncombe. È partito martedì scorso e Mr. Twisden mi ha lasciato le chiavi per affittare le stanze. Ora guardo se non ci riesco a uscire per la finestra della sua camera sul cornicione e da lì dentro all'appartamento di Mrs. Duncombe. Mi ha pregato di provarci e così ho fatto. Sono salita sul cornicione, ho rotto un vetro di Mrs. Duncombe, ho aperto la finestra e sono entrata. Qui c'è la finestra e qui c'è la porta. La porta era chiusa col chiavistello. L'ho aperta e Mrs. Rymer e Mrs. Love sono entrate. Non ho visto la prigioniera, ma immagino che è arrivata dopo poco. Nella prima camera abbiamo trovato la ragazza, Anne Price, con la gola tagliata da un orecchio all'altro, i capelli sfatti che le pendevano sugli occhi e le mani strette così. Nella stanza da pranzo abbiamo trovato Elizabeth Harrison sdraiata su un letto ribaltabile. Era stata strangolata, aveva la gola graffiata. Mrs. Lydia Duncombe era stesa di traverso sul letto nella camera accanto, anche lei strangolata. Pubblico ministero. C'era anche la prigioniera a quel punto? Anne Oliphant. Sì, e mi ha detto qualcosa, ma ero così impressionata che non so cosa ha detto. E pochi minuti dopo è entrata la folla. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.